America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. This was a terrible, awful, I can't even imagine the impact on the families who were subject to this attack and the loss of children in this terrible incident. Hillary Clinton alle Nazioni Unite, l'avete sentita di nuovo espresso ieri il rammarico degli Stati Uniti per il gravissimo incidente che si è verificato in Afghanistan, il sergente che ha compiuto una strage di civili. E Hillary dice: quel che è successo in Afghanistan è terribile, non posso neppure immaginare l'impatto sulle famiglie che hanno subito questo attacco, la perdita dei loro bambini in questo terribile incidente. E poi ammette Hillary: abbiamo avuto alcune settimane difficili, complesse in Afghanistan. Beh, direi che è un approccio forse addirittura riduttivo, questo è chiaro a tutti, continua Hillary, ma questo incidente orrendo non cambia l'impegno degli Stati Uniti nel paese per proteggere il popolo afghano, aiutarlo a costruire uno Stato forte e stabile. Ecco, io credo che queste parole siano sicuramente importanti, ma sono anche abbastanza inutili, perché qui ci vuole l'azione. Gli Stati Uniti si stanno muovendo un po' troppo lentamente, secondo me. Qua occorre capire esattamente chi è stato, come è potuto succedere un incidente di questo genere, il profilo del personaggio che l'ha compiuto e soprattutto con che rapidità si andrà a un processo che dovrà inevitabilmente portare a una condanna, non come è successo finora, alla chiusura di un occhio e magari di due. Non credo che questo sia l'approccio giusto. Se si continua ad esprimere rammarico, sicuramente si fa qualcosa di positivo, ma bisogna intervenire in modo più incisivo. Ne va della credibilità non soltanto degli Stati Uniti, ma della missione della NATO in Afghanistan. Wall Street, Wall Street è in attesa delle riunioni di oggi del Federal Open Market Committee, della Federal Reserve, un'attesa in realtà che è più proiettata verso giovedì, verso quel che la Fed dirà giovedì piuttosto che su quel che dirà oggi, perché oggi nelle riunioni del Federal Open Market Committee, cioè le riunioni del Comitato Monetario, la Federal Reserve non introdurrà quasi certamente degli elementi nuovi. Dunque l'incontro di oggi, secondo me, darà al mercato un segnale di continuità ma di attesa. Molto più interessante invece quel che la Fed ci dirà giovedì, perché la Fed darà i risultati dello stress test su 19 grandi banche americane, ed è un test atteso, un risultato molto atteso, non soltanto per la stabilità del sistema bancario americano in genere, ma perché se questo test andrà bene, alcune banche hanno già dichiarato che aumenteranno di molto la distribuzione dei loro dividendi. Is that President Obama's policies have failed? He and virtually all the people around him have never worked in the real economy. They just don't know how jobs are created in the private sector. E veniamo alla parte centrale della trasmissione di oggi, cioè al voto. Oggi si vota in Mississippi, si vota in Alabama, sono due voti importanti, in teoria dovrebbero chiarire chi dei candidati, soprattutto dei candidati della destra, si troverà in difficoltà maggiori e dunque magari costretto ad uscire. Devo dire che finora regna la più totale incertezza. Avete sentito Mitt Romney, che si sente abbastanza sicuro, soprattutto in Mississippi, dove ha un margine secondo i sondaggi del 35% delle preferenze contro il 27% di Santorum, quindi ha un margine di 8 punti sul suo secondo concorrente, ma Gingrich ha recuperato su Santorum, sono più o meno alla pari, addirittura Gingrich si trova in testa in Alabama, mentre Romney è al 26,3% con Gingrich al 27%, dunque saranno corse molto strette. Oggi si vota anche alle Hawaii, Romney in quel caso si trova in testa direi di gran lunga, a 16 punti rispetto al suo concorrente. Poi andiamo al 17 di marzo in Missouri, dove di nuovo Gingrich si trova in testa, Romney solo al terzo posto, Illinois dove Romney invece conduce. Una gara dunque ancora confusa, ma la tendenza che sta emergendo continua a confermare secondo me la posizione di testa di Mitt Romney. Santorum, che sembrava potesse scalzare Gingrich, si trova in difficoltà. Non so da che cosa dipende esattamente, perché la sua base è una base molto forte soprattutto dal punto di vista religioso, però proprio parlando di religione, ecco, devo dire che su Santorum stanno emergendo alcuni dettagli che insomma secondo me qualche difficoltà gliela creano. The Constitution is there to do one thing: protect God-given rights. That's what makes America different than every other country in the world. No other country in the world has its rights based in God-given rights. Ecco, cominciamo dalla parrocchia, una storia secondo me che va raccontata, la parrocchia di Rick Santorum, che è la chiesa di Santa Caterina da Siena in Virginia, una chiesa che celebra la messa in latino, una delle roccaforti del conservatorismo cattolico americano. Vi avevo raccontato della totale dedizione di Santorum al Papa, l'autorità del Papa, della non separazione fra Stato e Chiesa. C'è qualcosa di più però, c'è stato un articolo di Molly Ridden su The New Republic di qualche giorno fa che racconta dei legami della chiesa di Santa Caterina da Siena con l'opera Opus Dei. Intanto il reverendo Franklin McCaffie, che è il fondatore della chiesa, ha dichiarato in un'intervista al Washington Times di qualche tempo fa che molti membri della sua parrocchia appartengono all'Opus Dei. Lo stesso McPhee è un cooperatore dell'Opus Dei, che è un titolo formale che identifica qualcuno che, pur non essendo membro della prelatura personale, ricordiamolo, l'Opus Dei non è un ordine religioso, però diciamo, pur non avendo una prelatura personale, aiuta la missione. Santorum ha detto pubblicamente di non essere un membro dell'Opus Dei, però si è recato nel 2002 a Roma per il 100° anniversario della nascita di José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. I suoi figli, uno dei suoi figli in realtà, va a una scuola legata all'Opus Dei. Non c'è nulla di male naturalmente in tutto questo, perché l'Opus Dei poi è un'autorevole organizzazione cattolica riconosciuta con una gran quantità di seguaci. Il problema sta nel fatto che l'Opus Dei riconosce che i suoi membri, i suoi seguaci, devono applicare la loro osservanza cattolica, la loro appartenenza cattolica anche nel loro lavoro e anche naturalmente nella loro missione politica. Ecco, l'aspetto interessante dunque riguarda il confronto di novembre, perché se davvero Santorum dovesse vincere, a quel punto si troverà contro Barack Obama, che è certamente più laico, e gli Stati Uniti, per tradizione dei padri pellegrini che vennero qui per poter professare maggiore libertà alla loro fede puritana, sicuramente non portarono una dottrina di dipendenza da una chiesa. Credo che il fatto che lui si sia indebolito proprio in degli stati religiosi, forse potrebbe essere forse anche rappresentativo di questa sua marcata, aperta, esplicita adesione a un'ortodossia cattolica che non credo appartenga alla maggioranza degli americani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. In attesa dei risultati del voto di stasera in Mississippi, Alabama, vi faccio ascoltare questa canzone del 74 che appartiene ai grandi classici americani, dedicata proprio all'Alabama, di Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Well, I hope Neil Young will remember. I said a man don't need him around now. Sweet Home Alabama. Where the skies are blue. Sweet Home Alabama. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.